figata, zero plastica. Dal basement underground studio di Genova, direttamente a Imperia per Caruggi Mixtapes. Yulo, Jama, un po' di sana controinformazione rap per il ponente ligure, bombardato da scie chimiche. Bombardato dalle scie chimiche. Nell'agosto 08 accade uno strano fenomeno. A 20 miglia si diffonde un vapore tossico. Una decina di persone accusano malore. Si dice che sia causa di un agricoltore di cui non si sa nome, ma si sa che ha usato Vapan, un diserbante con qualche controindicazione. Ma arrivano anche le autorità, polizia, carabinieri, pompieri e l'ambulanza. Curano sul posto gli abitanti di Sealza, mentre il sindaco assicura la cittadinanza. L'allarme è già rientrato, basta soltanto che andiate a casa e vi lavate via le sostanze tossiche. Tutto ok, tutto bene, tutto a posto. Purtroppo però c'è qualcosa di sospettoso. C'è sempre qualcuno che vede ovunque un complotto, e anche in questa storia sa cos'è nascosto sotto. Fanno esperimenti che neanche te lo immagini. Siamo come cavie nelle mani di pazzi. Se non sai ancora di che cosa sto parlando, guarda in alto, ci stanno ammazzando. Fanno esperimenti che neanche te lo immagini. Siamo come cavie nelle mani di pazzi. Se non sai ancora di che cosa sto parlando, guarda in alto, ci stanno ammazzando. È la sera del 10 agosto, spostiamoci un po', qualche chilometro in là sorge Sanremo Borgo. La gente del posto nota aerei strani in volo, e pochi minuti dopo avverte un odore da vomito. So che non si usate per aerosol, hanno cisterne per contenere etilene di bromuro e sostanze simili, spesso anche invisibili, e fanno esperimenti clandestini sui civili. Altro che nube tossica, non credo a sta menzogna costruita per coprire una verità scomoda. La verità è che c'è una relazione tra il passaggio degli aerei e l'intossicazione. La verità è che anche armaditaggia volano elicotteri anonimi sulla spiaggia, spandendo sostanze in aria per qualche ragione strana. Per questione di grana s'ammazza l'umanità. Fanno esperimenti che neanche te lo immagini. Siamo come cavie nelle mani di pazzi. Se non sai ancora di che cosa sto parlando, guarda in alto, ci stanno ammazzando. Fanno esperimenti che neanche te lo immagini. Siamo come cavie nelle mani di pazzi. Se non sai ancora di che cosa sto parlando, guarda in alto, ci stanno ammazzando. No, pensi che siano cazzate, pensi che siano paranoia, pensi che sia la teoria della cospirazione. Bene, allora vai su sciechimiche.org, vai su tankthenemy.com, fatti un'opinione, fatti un'idea, renditi conto degli esperimenti militari fatti su popolazioni civili in armi in tutto il mondo.